Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, seconda parte stasera dell'intervista a Hervé Falciani, che ho incontrato nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento. Falciani è l'uomo che ha rivelato i nomi dei titolari di decine di migliaia di conti segreti presso la banca d'affari internazionale HBSC e spiegato come le banche operano nei paradisi fiscali per far sparire nel nulla il denaro. Nella puntata di ieri Falciani ci ha illustrato come la finanza sporca oggi possa fare affidamento sulla immensa complessità del sistema finanziario e delle sue procedure per rendere di fatto impossibili da ricostruire le informazioni rilevanti e soprattutto il quadro completo della situazione finanziaria di una persona. A tale scopo la finanza fa uso al massimo livello di tutti gli strumenti disponibili, dalle più evolute monete virtuali al buon vecchio contante, che è ancora un pilastro della finanza nera. Ed è proprio da qui che partiamo stasera, sentite. C'è un dibattito addirittura sull'abolizione del contante. Oggi senz'altro la moneta elettronica potrebbe sostituire quella fisica. Soprattutto i grossi tagli sono considerati una manna per le organizzazioni criminali. Volevo capire se nella sua esperienza, per i fenomeni che ha visto, il contante è molto importante o se oggi passa comunque tutto. Allora, l'ho potuto vedere il contatto con gli investigatori, no? Che... E alla fine è risolto che rappresenta un terzo dell'attività nominale, no? Totale. È gigante. Cioè un terzo degli spostamenti di denaro avvengono con queste banconote da 500 euro che nessuno di noi ha mai speso nella sua vita, sostanzialmente, mi sta dicendo. Esattamente, la quantità rappresenta un terzo. Le fughe di notizie che ci sono state in questi anni, pensi insomma che abbiano influito sulla decisione di alcuni paesi di rivedere, diciamo così, il segreto bancario? Davvero il segreto è la storia dell'informazione, dunque viene va a cambiare, va a evoluare come sempre, e il discorso di organizzare un cambio non è possibile, non si può pensare che andiamo a decidere come l'informazione va a evoluare, no? Dunque come insistivo in ambito più economico, lottare contro il segreto è già una battaglia persa da sempre, come lottare contro il conoscimento. Il conoscimento va a conoscimento? La conoscenza, scusi, okay. È proprio una parola spagnola. No, la conoscenza va a estendere, a essere più e più condivisa, no? Il segreto bancario, se torniamo forse un po' alla domanda iniziale, cioè non è che in qualche misura anche paesi come la Svizzera si sono resi conto che non è più così facile tenere il segreto bancario? Vediamo, abbiamo un esempio che è molto chiaro e molto semplice da capire, è quello della FIFA. Le truffe sono evidenti, sono certe e continuano a essere permesse dalla diplomazia. E di trattati è la storia della diplomazia. Infatti, i cambi non li possiamo aspettare da fuori dell'Italia, da fuori della Francia. Tutti noi abbiamo il potere di fare veri cambi, però localmente, non più con la diplomazia. Quindi concentrarsi su quello che possiamo fare nel nostro paese con le nostre leggi, invece che andare in cerca di chissà quali trattati bilaterali. Basare le azioni sui fatti. Dunque l'informazione vera che abbiamo localmente e totalmente, non ipotizzando su il fatto che dall'estero vendranno tutte le informazioni che chiediamo. Insomma, quindi lunga vita o non lunga vita per il segreto bancario? La notizia più importante per me è che non importa. Se capiamo bene la storia dell'informazione, se sappiamo che non si può agire senza l'informazione vera, capiamo che non importa quello che stanno facendo gli altri per decidere quello che vogliamo. Fermiamoci per un istante. Cosa dice Falciani? Che cercare di stanare gli evasori sul terreno della lotta al segreto bancario è sostanzialmente impossibile. Certo, ogni tanto c'è una fuga di notizie, ma questa dovrebbe servirci soprattutto a capire come funziona il sistema. Per il resto dobbiamo imparare a contare sulle informazioni che abbiamo. Per esempio, dice Falciani, si potrebbero usare i condoni fiscali per identificare gli istituti di credito che favoriscono l'evasione e colpirli con pesanti multe. Un'altra proposta Falciani la fa sul regime fiscale, in relazione a quelle società che spostano gli utili nei paradisi fiscali e le perdite nei paesi ad alta tassazione. Ascoltatela tenendo presente che quando dice benefici Falciani intende utili. Sentiamo. Per esempio, per il pane, se tutte le aziende che fanno il pane vanno a comunicare e vanno a aiutare a capire quale deve essere la tassa giusta, le tasse giuste sul pane, per essere concorrente, però proteggendo e pensando a una tassa unica, non più anche sui benefici, tutto quello, sarà un aiuto per le stesse imprese localmente, che non avranno più a pagare quelle tasse sugli benefici, e tutti, anche gli stranieri che pagano nel loro paese tasse sugli benefici, saranno meno competitivi con le nostre qua, che non avranno più quell'imposta. Insomma, una tassa dal vago sapore medievale, come l'antica tassa sul pane che colpiva i volumi di beni prodotti anziché gli utili realizzati. Era un sistema semplice ma grezzo, e d'altronde nel Medioevo non c'erano alternative, come forse non ce ne sono neanche oggi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.